che ci sei. E me ne sono accorto presto, ma cercavo già un pretesto per nascondermi da te. So che spesso ti volevo, quando niente andava mai. So che in fondo non credevo che prendessi tu i miei guai. E lascio fare a te, perché tu sai com'è. Scappi quando il cielo è sereno, lasci che faccia il fiero e ti godi da lì il tuo show. Torni quando non c'è più sole e non ho più le parole, e ti sistemi dove sei già. Ci penso e più mi accorgo che c'è un patto tra di noi. Se ti cerco tu ci sei, ma non ti lasci fare mai. Sai che penso prima a quelli che ho già visto stare giù. Fa male immaginare come arriveresti tu. E resto facile per una come te. Scappi quando il cielo è sereno, lasci che faccia il pieno e ti godi da lì il tuo show. Torni quando non c'è più.